بسم الله الرحمن الرحيم. Giaculatorie per il ricordo di Allah. Introduzione. Nel nome di Allah, il sommamente misericordioso, il clementissimo. O Allah, benedici ed abbi in gloria il tuo servo e apostolo Muhammad. Compiaciti, o Allah, della sua famiglia, dei quattro califfi ben guidati, di tutti gli altri suoi compagni e di coloro che hanno camminato, camminano e cammineranno con il tuo permesso sulla via indicata dal suo insegnamento e dal suo esempio di vita. Il testo di questo CD è un florilegio di giaculatorie, brevi formule invocative lanciate ad Allah, potente ed eccelso egli è, per impetrarne la grazia, espressioni devozionali di lode, magnificazione ed esaltazione di Allah. Rifulga lo splendore della sua luce in cui prende forma la gratitudine del fedele musulmano al suo Signore, il ricordo del quale adempie al precetto coranico che si trova nella Sura 2, all'Aia 152, ricordatevi di me e io mi ricorderò di voi, siatemi riconoscenti, non siatemi ingrati. Il ricordo di Allah, Zikrullahi, è una chiave segreta per aprire le porte della misericordia di Allah, sia gloria a Lui l'Altissimo. E la differenza tra l'uomo che ricorda Allah e quello che non lo ricorda è la differenza tra il vivo e il morto. L'eccellenza tra le espressioni del ricordo di Allah, sia gloria a Lui l'Altissimo, è quella contenuta nella formulazione del Tawhid, unità, unicità e unipersonalità di Allah. La ilaha illallah. Non c'è divinità tranne Allah. Questa formula in lingua araba si chiama Tahlil. Altre formule brevi sono la formula Subhanallah, che si chiama Tasbih, la formula Alhamdulillah, che si chiama Tahmid, la formula Allahu Akbar, che si chiama Takbir, la formula Wala hawla wala quwwata illa billah, che si chiama Tahwil. Esse sono riunite nella giaculatoria Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwwata illa billah, che significa sia glorificato Allah, la lode appartiene ad Allah, non c'è divinità tranne Allah, Allah è il più grande, non c'è forza né potenza se non grazie ad Allah. Le invocazioni ad-da'wat e le formule del ricordo di Allah, al-zakkar, possono essere fatte a bassa voce oppure silenziosamente. La forma migliore è quella silenziosa. Il profeta, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, disse: Allah l'Altissimo non lascia vuota la mano che è alzata al cielo con una invocazione. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, l'invocazione è adorazione. Poi recitò: il vostro Signore ha detto, Druni stagibulacum, invocatemi, vi esaudirò. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, nulla svia il colpo del destino se non l'invocazione e nulla allunga la vita se non la rettitudine. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, ogni discorso che il figlio di Adamo pronuncia, lo pronuncia a proprio danno, tranne quando con esso ordina il bene e proibisce il male e quando con esso ricorda Allah. Fu detto al profeta, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, o apostolo di Allah, le regole dell'Islam sono troppe per me, perciò rendimi edotto di qualcosa a cui possa aggrapparmi. Rispose, la tua lingua non cessi di essere sazia del ricordo di Allah. Il titolo di questa raccolta, Aurad Fathiya, giaculatorie inaugurali, deriva dal fatto che la loro recitazione viene eseguita dopo il rito di adorazione dell'alba, come prologo, introduzione, apertura devozionale della giornata entrante e come sua consacrazione ad Allah, rifulga lo splendore della sua luce. Per motivi di spazio, il testo scritto è stato diviso in due quaderni, la struttura dei quali si articola in tre spazi. Nel primo spazio, il testo delle giaculatorie è in italiano. Nel secondo spazio, il testo è costituito dalla frase araba sotto la quale vi è la sua traslitterazione fonetica, sotto la quale vi è il significato in italiano, nella quale le parole italiane sono sotto le parole traslitterate da sinistra a destra, che corrispondono alle parole arabe in ordine inverso. Le singole cifre della serie numerata delle parole arabe che va da destra a sinistra corrispondono alle stesse cifre della traslitterazione che va da sinistra a destra con sotto i significati corrispondenti in italiano. Il terzo spazio contiene, con la scrittura da destra a sinistra, il testo arabo. Lo scopo di questa tripartizione è evidente. Il lettore italiano, interessato soltanto ai contenuti, leggerà solo il testo italiano. Il lettore arabo leggerà il testo arabo da destra a sinistra. Il lettore italiano, il quale, essendo neofita, è interessato all'Islam in arabo, e il lettore arabo che sia interessato all'Islam in italiano, ai fini della Dawa agli italiani, studieranno il testo corredato di traslitterazione ai fini della pronuncia e della traduzione ai fini dell'acquisizione dei significati delle frasi in arabo da parte degli italiani e delle frasi in italiano da parte degli arabi. La finalità della realizzazione è quindi anche didattica, oltre che di istruzione religiosa, e il successo dell'opera dipende esclusivamente da Allah, rifulga lo splendore della sua luce, walhamdulillahi rabbil alamin. In questo CD sarà recitata la seconda parte con la espressione in lingua araba seguita dalla traduzione in italiano.